Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Musica palla che come una palla rimbalza, fa sponda e ritorna nell'angolo scelto da me, che non è mica semplice. E parto con spalle alla porta e la faccia un po' assorta di chi si avvicina al divano e si tuffa dal limite, ma commovenze insolite. Ed esco che già martedì, pure il mercoledì, giovedì, venerdì, poi c'è sabato, infine domenica, che è sempre più frenetica. Così non rimane che un giorno in cui sono di turno per chiedere il mio sacrosanto diritto di implodere. E senza fare polemiche, non si può rinunciare a una sera speciale che inizia così, ogni santo lunedì. Ma come inizia bene questa settimana? Qui in studio con me il dottor Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Questo dimostra che lei è un uomo che rispetta le promesse. Eh sì, l'avevo promesso alla bufala. Ecco, e non era una bufala. No, no, era tutto vero. È arrivato e poi ha portato la schiscetta, come sempre dicono. Sempre con me. Schiscetta. La schiscetta, come dicono a Milano, nel mio zaino. Lei quando la prepara? Io la preparo mista, nel senso che normalmente faccio una base che vi consiglio di fare perché è molto pratico, con un paio di semi lavorati, cioè un cereale in chicco cotto, quindi in una quantità per farci qualche giorno, e un legume cotto che teniamo così come sono sconditi in frigorifero. Se vogliamo essere proprio raffinatissimi, ci mettiamo un pochino di aceto, tenete conto che l'aceto abbassa l'indice glicemico degli alimenti e quindi in qualche modo migliora poi l'effetto saziante e in qualche modo l'effetto, diciamo, leggermente meno ingrassante che può fare un indice glicemico più basso, e poi fa un effetto blandamente antisettico, quindi in qualche modo disinfettante. Quindi cucchiaio d'aceto per ogni porzione, diciamo da 4 aceto giorni. Bianco, aceto... A me piace aceto di riso, che è un aceto giapponese molto delicato, se no aceto di vino quanto bianco. Quanto è raffinato! Aceto di vino bianco. Vino bianco oppure aceto di mele, che sono i tre aceti che hanno una componente gustativa che copre poco. Se usiamo un aceto di vino rosso, allora abbiamo bisogno, con un povero riso, magari l'aceto di vino rosso un po' sovrasta. E lei li mette sia nei cereali che nei legumi e aiuta un po' a dimagrire. Pochissimissimo, perché è un cucchiaio per ogni 400 grammi, però ricordiamoci, ma questo al di là dell'usarlo come vi ho raccontato adesso come conservante, l'aceto è a tutti gli effetti uno stimolatore da un punto di vista addirittura dell'espressione genica, o meglio non l'aceto ma l'acetato, che è la componente dell'acido acetico. L'acetato ha un effetto di miglioramento dell'espressione genica che ha a che fare con tutto quello che noi chiamiamo sindrome metabolica, quindi tendenza a ingrassare, tendenza a avere i trigliceridi alti, l'HDL basso, piuttosto che la glicemia un po' lì ai limiti. Ma è magico questo aceto. Un cucchiaio d'aceto mescolato bene, se no ci brucia la bocca, quindi mescolato al cibo. Insomma, nella medicina popolare si usava l'aceto nelle persone quando il diabete non esisteva altro, perché non c'erano le cure di oggi. Mi raccomando, andate dal diabetologo se avete il diabete, non fate mai il fai da te, ma un cucchiaio d'aceto comunque è qualcosa che sicuramente aiuta il vostro metabolismo. Ecco, intanto penso già, no? Sì, ce l'ho, adesso lo aggiungo. Allora, lei si porta avanti. Semilavorati, frigorifero. Mi piace che adesso dico, sto preparando i semilavorati. Sì, ce li ho nel frigo. Caro, sto preparando, non disturbarmi, sto preparando i semilavorati. Quindi in pratica si fa una pentolata di cereali integrali in chicco. Che durano 2 o 3 giorni. Sì, con un po' di aceto anche la settimana. Ma poi se ci dite di variare. Pignoli, e allora entriamo nel pignolo, dovremmo fare 2 semilavorati per tipo. Allora a questo punto dobbiamo fare 2 cereali in chicco e 2 legumi. Ecco. Che ci può stare comunque. Diciamo che, diciamo da questo che punto la di Nico vista, è una rompi. La Nico coglie sempre nel segno e sa che bisogna sempre variare. Questo però adesso, al di là degli scherzi, la varietà è uno dei motivi forti per cui poi noi possiamo guadagnare salute mangiando. Varietà dei cereali, dei legumi, della verdura. Il mondo mangia ad esempio pomodori e insalata come verdura, che per carità va benissimo, ma ci sono altre 100 verdure che noi possiamo mangiare in ogni stagione. Quindi questo il professor Gasbarini, che è intervenuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è intervenuto in una puntata tutta sul microbiota, ha detto che bisogna variare perché il nostro microbiota, tutte le popolazioni, virus, batteri, funghi che vivono nel nostro intestino, hanno dei gusti diversi. Sì. E quindi c'è uno che gli piace il pomodoro, l'altro il broccolo, l'altro vuole il kiwi e l'altro... È importantissimo. E qua, noi dobbiamo mettere su un ristorante. Un ristorante, ecco, per i nostri piccoli amici. Per i nostri piccoli amici. Va bene, allora noi ritorniamo su questi semilavorati, li chiamerò sempre semilavorato. Così. Semilavorati. Abbiamo fretta, non stiamo a impazzire con la bilancia, prendiamo il misurino da mezza tazza, che è quello che si usa di solito in pasticceria per misurare le farine. Mezza tazza di cereali integrali in chicco, via dentro il nostro scatolino. Mezza tazza di legumi. Se non abbiamo tempo e siamo messi male come tempo, filo d'olio, un po' di erbe aromatiche e siamo via. Pronti a mangiare. Se abbiamo tempo, io quando tempo lo faccio volentieri, alla mattina faccio una verdura al momento. Che vuol dire una verdura che può essere cotta rapida. La cosa che io preferisco fare, perché ci si mette veramente un secondo, è una verdura non troppo coriacea, una cima di rapa piuttosto che un finocchio tagliato fine, una foglia di cavolo tagliata fine, cestello del vapore, un dito d'acqua e via. Botta di vapore in pressione, che vuol dire cestello, metto la mia verdura, chiudo la pentola a pressione, quando la pentola a pressione fischia, spengo tutto. Sotto tanto l'acqua, raffreddo, via. Perché così sennò rimane devo aspettare. Anche verde. Rimane verde, che brillante. Intanto che viene sul caffè, cuoce la, chissà cuoce che profumini in quella cucina. Insomma, e la spezia. Mi maledicono a sentire l'odore del immagino. Cavolo, però vabbè. Dottore Rzegovesi, e le spezie timide? Ma questa lei, sì. Dopo la salviamo la zucchina. Che abbiamo lanciato quest'estate. Adesso è tempo della spezia timida. Ecco, la spezia timida, io avevo questo pegno dalla bufala in tavola che era, abbiamo parlato di ceci speziati, ma non abbiamo detto quali spezie. Invece è molto importante, posto che le spezie non esiste una regola, la vera regola è sempre il nostro olfatto e il nostro palato, ma proprio come base di partenza mettiamo qualche grano di seme di coriandolo, mettiamo qualche grano di seme di senape, mettiamo un po' di curcuma, mettiamoci anche un pochino di erba. Io vi consiglio in questa stagione, che aiuta anche per le vie respiratorie, un po' di timo in polvere, timo secco, e possiamo metterci anche qualche seme di sesamo, che con la sua componente grassa cattura gli aromi e non li fa perdere nell'aria. Tutto nel mortaio. Ma lei è un poeta. È un vero. Poeta della spezia, diciamo. Un poeta così. Della spezia, delle spezie, ma quelle timide. Timide, ma che vanno. La persona vanno timida, se trova un ambiente accogliente, ci accompagna per tutta la vita. E quindi mette tutto questo mix. Mortaio, io un tempo usavo il macina caffè, ma poi mi maledivano i miei vicini perché sentiva zzz alle 6 della mattina. Quindi mortaio. Diamo una macinata veloce in modo che tutti questi profumi si leghino tra di loro. Questa base la mettiamo nel padellino, la facciamo scaldare e la buttiamo dentro la nostra schiscetta. Ma se la preparo prima? Meglio ancora, perché la spezia, proprio perché è timida, più tempo ha per riscaldarsi e per stare insieme agli altri alimenti, meglio è. Poi ricordiamoci che la spezia è il conservante dei nostri antenati, non c'erano i conservanti. Conserverà bene anche noi, che dice? Meglio ancora. Chissà, proviamo anche con le spezie. Dottore Rzegovesi, grazie. Grazie a voi. 349-238-6666, a questo punto messaggi WhatsApp, dillo all'amico. Raccontateci le vostre ricette e soprattutto le vostre schiscette. Come opposti che si attraggono, come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme, sopra il male, sopra il bene. Ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano, corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Che rumore fa la felicità? E adesso è arrivato il tempo di presentarvi l'ospite che ci accompagnerà per tutta questa settimana. In studio con me Raffaele Morelli. Ciao Raffaele. Ciao a te, ciao a tutti. Per questa settimana abbiamo pensato di far fare ai nostri amici una sorta di mini corso per la felicità. Mi sto allargando? No. No. Ogni giorno un consiglio, un'idea, un suggerimento, un non detto per imparare a essere felici. Si può dire così? Si può dire così perché noi siamo i peggiori nemici della felicità, noi la teniamo lontano. Mm. La teniamo lontano con errori che non dovremmo più fare. Allora iniziamo oggi, lunedì, primo giorno di questo nostro mini corso. Allora, prima regola. Prima regola. Sto pensando? Sto ragionando sul futuro? Beh, penso ad esempio che cosa dovrò fare oggi. Ecco, prova a distrarti un attimo. Sì. Ti svegli il mattino, no? E mentre ti vesti, prova a immaginare che stai vestendo non la donna che va a lavorare, non la donna che deve portare i bambini a scuola, no? Ma una donna antica, con un vestito antico, in un paesaggio antico, in un altro mondo, in un altro territorio. Puoi farlo anche quando sei a pranzo. Puoi farlo 2 o 3 volte al giorno. Perché questo? Perché la distrazione è il più potente farmaco del cervello. Noi sgridiamo i bambini perché si distraggono. I bambini, distraendosi, in realtà stanno esplorando altri territori. La felicità viene spazzata via dalla ripetitività. Cioè l'idea che ho un problema e continuo a pensarci e ripensarci, no? Con lui non vado d'accordo, mi sa che devo lasciarlo, e me l'aveva detto anche mia mamma e io l'avevo capito. No, io prendo atto che lui non mi piace, punto. Adesso immagino di essere in un viaggio sulla mongolfiera, oppure in viaggio su un aereo che vado in un'altra città, oppure che sto facendo una cosa che mi piace. Bene, distrarsi dal problema e immaginare scene di altri tempi, essere una donna greca, una donna romana, una donna d'altri tempi. Immaginare una donna antica è un farmaco importantissimo per il cervello. Perché? Perché va dal cervello e gli dice: liberami le sostanze antiche che ci sono in me. Vedi, noi siamo diventati uomini e donne troppo moderni. E troppo moderno non va bene, perché le nostre radici sono antichissime. E le radici antiche hanno soluzioni. Vedi, una pianta, le radici trasformano la pianta in primavera, autunno, estate, inverno. Quindi dentro di me c'è qualcosa che sa dove portarmi. Quindi non guardiamo solo le foglie che cadono. Bravissima. E i fiori, ma andiamo alle radici e distraiamoci. Ma voi non distraetevi, perché devo dirvi che a mezzogiorno siamo di nuovo insieme. Soprattutto domani torna con noi Raffaele Morelli per il nostro mini corso per la felicità. Buona giornata. Buona giornata a tutti.